segnale di uranio è più basso, regola il mio segnale, cioè fate la taratura sul mio segnale, ok? In modo che anche quando parla uranio, lo smitter sale. Se tu sollevi a me o abbassi a me, abbassi anche a lui, e sollevi a lui, abbassi a me. A Salvini non si comprende un accidente. così rimane, rimane più tranquillo, dai. Ok, adesso non ho come sei? Sì, adesso sono normale con 15 watt e quelli che è dal baracchino, dai. Ok, perfetto. Ma se sono così c'è bisogno di un baracchino, così è bisogno. Sì, quelli già si trovano poco a poco. Niente, era solo una prova. È l'unico baracchino che ho lasciato questo, anche perché lo uso in 10 metri e quindi gli altri li ho tutti tolti, no, non c'è più niente. Portato tutto in garage, no, non c'è più niente qua. Solo radio HF, l'unico baracchino che ho lasciato è questo perché è un po', spazia un po' e quindi lo uso anche in 10 metri, quindi a 28, capito, l'amplificatore ce l'ho perché è quello dei 10 metri, ma altrimenti no, non mi interessa, vedi che non sto manco più entrando, vi ascolto ma non ci sto neanche più entrando perché no, non ne ho più voglia di fare niente, sono impegnato a fare altro e quindi oggi è domenica, è già la terza volta che entro, poc'anzi eravamo con Antonio e Luca, Massimiliano eccetera, mi sono andato a salutare, adesso ho sentito la testa e facevano delle prove, prima che perdi la testa ti ho detto che già va bene tutto, non ci sono problemi, va bene. No, questo è lo stesso baracchino uguale al tuo Uranio, capito? Questo è uguale al tuo, solo che questo praticamente era di un radioamatore, gli ha fatto la potenza regolabile sempre dall'esterno, sempre dall'esterno, con nessun pomello originale tu non ti accorgi di niente, però c'è una funzione sul tasto del mic gain che praticamente funge anche da, va interno, esterno, capito? E funge da regolatore di watt, quindi va da 0 a 35 watt in AM, FM e da 0 a 50 watt in banda laterale. Il display, questo è tutto celeste, non è, questo è l'HR, sono senza occhiali, 2310, è l'ultimo del President. C'è scritto così, HR2310, President HR2310, che è praticamente il Lincoln, l'ultimo che hanno fatto. E ho fatto una prova di microfono con l'adattatore, uso il microfono della Kenwood dell'MC80, che è questo che stai sentendo, tutto qua. Ciao.